Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di due libri strettamente economici. Il primo riguarda il caso Fiat, il secondo il tema dello scenario economico, come è cambiato il mondo, come è cambiata la globalizzazione. Il primo è di Riccardo Ruggeri, buonasera dottor Ruggeri. Buonasera. Ed è Parola di Marchionne, e quindi è un titolo che è tutto un programma, parla del caso Fiat. Riccardo Ruggeri è entrato come operaio alla Fiat, ma poi nel corso degli anni ha fatto, come dire, carriera ed è diventato responsabile anche di numerose attività all'interno sempre del gruppo Fiat. Il secondo libro è Nuove polarità nella geoeconomia, globalizzazione, crisi ed Italia, a cura di Marco Fortis e Alberto Quadriocurzio. Abbiamo con noi il professor Alberto Quadriocurzio. Buonasera, professore. Buonasera. Ecco, io inizierei parlando di Fiat. Fiat è un protagonista della globalizzazione. Parola di Marchionne, dottor Ruggeri, è un po' un'analisi di cosa sta facendo la Fiat e quindi il suo amministratore delegato, Marchionne, in questa fase, una fase non certo facile, però lei ha grandi speranze in questa Fiat. Beh, io ho grandi speranze, al punto tale che questo libro ha una caratteristica abbastanza tipica, e cioè un anno fa, il 30 di marzo del 2009, c'è stata una famosa, che tutti ricorderanno, una famosa conferenza stampa dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, nella quale Barack Obama ha dichiarato che per salvare la Chrysler, adesso banalizzo, per salvare la Chrysler ci voleva la Fiat e ci voleva Sergio Marchionne. Su questa suggestione io ho comprato dei titoli Fiat Exor e mi sono messo a scrivere un libro che è nell'ottica di un investitore, quindi non è un libro come sono normalmente i libri di questo tipo, che sono scritti o da analisti o da giornalisti economici o da accademici. Questo è letto dal punto di vista di un investitore. E quindi secondo lei, con questa fase, con questa partecipazione della Fiat nella Chrysler, tra l'altro lei ricorda che il presidente Obama ha detto: sono venuto a fare il presidente degli Stati Uniti e non l'amministratore delegato di un'industria automobilistica. Questo, e quindi, 6 mesi dopo lo ha detto. Lo ha detto 6 mesi dopo, però soddisfatto comunque del passo compiuto. Che questa fosse la risposta giusta a un mercato comunque in cui già si intravedevano dei grossi segnali di crisi. Certamente, la crisi era drammatica e io penso che sia tuttora drammatica, non la crisi della Fiat o della Chrysler, ma la crisi del mondo automobilistico. Abbiamo poi visto delle cose che non erano mai successe in passato, per esempio la grande crisi in termini di prodotto, di qualità dei prodotti di Toyota, tutta una serie di altri costruttori che richiamano automobili in giro per il mondo, quindi la risposta comunque è stata nella direzione giusta e lei ha detto, ha cominciato a scrivere questo libro un anno fa, probabilmente l'ha finito 6 mesi fa, adesso con l'occhio appunto dell'inizio della primavera del 2010 è ancora dello stesso parere? No, dunque allora il discorso, il mio io l'ho finito 6 mesi fa, cioè alla fine di ottobre, e l'ho finito quando praticamente io ho ritenuto che fosse finita la fase ciclica nella quale Marchionne ha affrontato con grande piglio e con grande determinazione questo aspetto. Il tema, la caratteristica del libro in fondo è questa, quella che dice, mette me stesso e il lettore nelle condizioni di dire: ma che cosa si dovrebbe fare? Quindi più un libro di strumentazione, di fornire strumentazione a me per primo e strumentazione ai lettori per affrontare questo tema. È chiaro che di qui in avanti c'è quello che Marchionne ha già dichiarato, e cioè che uscirà credo il 21 di aprile, uscirà questo piano strategico consolidato. perché questo è importante, non il piano strategico Fiat o il piano strategico Chrysler, ma il piano strategico consolidato. Ecco, quindi tra qualche giorno potremo verificare quali saranno le nuove strategie della Fiat. Allora vorrei rivolgermi per vedere appunto in quale scenario si collocheranno queste strategie al professor Alberto Quadriocuzio, lo ricordo, che ha curato con Marco Fortis il libro Nuove polarità della geoeconomia. Come la crisi, la grande crisi del 2009, ha cambiato la globalizzazione? Professor Quadriocuzio. L'analisi che viene svolta nel libro che stasera presentiamo deriva da un convegno che abbiamo tenuto presso l'Accademia Nazionale dei Lincei con una partecipazione internazionale molto qualificata, che porta a configurare il passato recente, il presente e il futuro dell'economia mondiale sotto tre profili. Vi è un profilo facente capo ai grandi paesi in via di sviluppo, o meglio emersi, perché Cina e India sono ormai emersi sullo scenario mondiale, con l'intervento specifico di uno studioso cinese e di uno studioso indiano. Vi è il profilo dei rapporti tra l'euro e il dollaro, o più generalmente parlando tra Stati Uniti ed Europa, e vi è infine il profilo relativo all'economia italiana. Sotto questi tre diversi profili ne esce una valutazione composita, perché da un lato è assolutamente chiaro che la Cina ha una visione di lungo periodo nelle sue scelte economiche e tutto sommato considera la dinamica recente, ivi compresa la crisi, quantunque il convegno si tenne prima della fase più acuta della crisi, considera tutto ciò come un fenomeno transeunte che nelle sue strategie di lungo periodo non modifica sostanzialmente le stesse. Altri paesi invece, come Stati Uniti in particolare, e anche Europa, emergono più traballanti nel contesto della globalizzazione. Direi che questo è il profilo più generale dello studio. Il caso poi dell'Italia meriterà un'attenzione più particolare laddove lei ritenga sia utile approfondirlo. No, indubbiamente io approfondirei subito con qualche elemento. L'Italia, si è detto, ha un'industria matura e indubbiamente abbiamo parlato prima, ne parleremo ancora tra poco, dell'industria dell'auto. Anche per l'industria matura, in questa prospettiva, diciamo, geostrategica, comunque ci potrà essere spazio in futuro. Professor Quadriocuzio. Ma dall'analisi che viene svolta sull'Italia ad opera di Marco Fortis emerge come il nostro paese sia il paese dei paradossi. I paradossi nel senso che la manifattura italiana e soprattutto taluni segmenti della manifattura ha retto benissimo negli ultimi anni la concorrenza internazionale ed anzi hanno persino guadagnato quote di mercato. Nell'anno 2008, che già era un anno segnato da una crisi incipiente, il surplus commerciale della manifattura italiana è stato probabilmente al suo massimo storico, quindi un risultato assolutamente eccezionale, che sta a indicare che l'Italia, senza più svalutazioni competitive e con tutte le rigidità che caratterizzano il sistema Italia, ha saputo tenere posizioni nella competizione internazionale. Naturalmente ci sono anche tutti gli altri punti di debolezza del nostro paese che rappresentano veramente un handicap micidiale nella competizione internazionale, che vanno dal deficit energetico, dal divario territoriale nord-sud, al debito pubblico che, non dimentichiamo, continua a assorbire una cifra enorme che potrebbe andare ad investimenti e via discorrendo. Quindi l'Italia rimane il paese dei paradossi, di grande successo soprattutto della sua manifattura e di grande debolezze in tutto ciò che ha a che fare, più o meno, salvo il fattore energia, che ahimè è riveniente da una scelta infausta di 20 anni fa, soprattutto da quella scelta, che hanno a che fare con l'intervento di natura pubblica. Ecco, ma in questa prospettiva, professor Quadriocuzio, proprio con una battuta, un'alleanza, proprio per tornare al tema Fiat, un'alleanza tra una grande industria europea e una grande industria americana può essere positiva per affrontare un nuovo scenario economico in cui la Cina però sarà protagonista? Ma il settore automobilistico non è un settore di mia specifica competenza e quindi esprimo una valutazione molto approssimativa, ovviamente affidandomi al commento del collega che è qui con noi questa sera. Io credo che l'industria automobilistica mondiale sia inevitabilmente portata ad una fortissima concentrazione, dove potranno restare sullo scenario dei mercati, che so, 8 al massimo 10 grandi imprese, e sotto questo profilo è chiaro che una concentrazione, sia essa transatlantica piuttosto che transsiberiana, andando verso l'Austria, la Cina, è una concentrazione inevitabile. Quindi, secondo me, le direzioni della concentrazione sono relativamente secondarie rispetto all'elemento primario, che la concentrazione deve avvenire, i grandi gruppi automobilistici dovranno ridursi intorno agli 8-10 al massimo. Ecco, allora passo la parola al dottor Riccardo Ruggeri. Su questa analisi, la concentrazione è inevitabile, necessaria, in fondo la Fiat ha fatto la mossa giusta, sfortunatamente gli è andata male con la Opel, dottor Ruggeri. Ma vede, quello che dice il professor Cuccio è assolutamente corretto. La mia perplessità è riferita proprio all'industria dell'auto, che è l'industria delle industrie in realtà. Io che ho vissuto i grandi piani nei scorsi decenni di razionalizzazione del mercato dei trattori o delle macchine agricole, quello dei veicoli industriali, le cose sono andate esattamente così, sono rimasti pochi grandi attori. Nell'industria dell'auto il problema è che nessuno vuole morire. Cioè è un'industria che non produce morti, che se ne dica, produce feriti. Questa è la mia perplessità, che questo meccanismo di pochi grandi attori non è così automatico. Ecco, speriamo che i feriti possano guarire, che tra i feriti in cui ci può essere, ecco, l'industria italiana possono comunque essere protagonisti in futuro in uno scenario che è difficile da interpretare, ma che comunque dobbiamo cavalcare. Io ringrazio Riccardo Ruggeri, autore del libro Parola di Marchionne, prefazione di Massimo Mucchetti, edito da Francesco Brioschi, editore, 170 pagine, 16,20 euro, una storia contemporanea della Fiat, così come ringrazio il professor Alberto Quadrio Curzio, che ha curato con Marco Fortis il libro Nuove polarità nella geoeconomia, globalizzazione, crisi ed Italia, edito dal Mulino, 340 pagine, 25 euro. Così come ringrazio ancora Fabio Cantadori in regia, Anita Panizza in redazione, non senza aver ringraziato quanti ci hanno ascoltato, a cui ricordo che questo programma, se vi è piaciuto, ma potete anche consigliarlo a qualcuno, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.